A tempo di sport. Ben ritornati, per chi colpevolmente non se ne ricordava, siamo in onda già da mezz'ora, dalle 16.30 con Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia e i miei amici ascoltatori che attendo all'800240024 per commentare questa giornata di campionato in cui è tutto un frenare, tutto uno slittare sulla neve. Ieri Milan e Juventus nell'ordine, con un paio di pareggini diversi, ma non negativi secondo me né per il Milan né per la Juventus. Oggi si attendeva la risposta dell'Inter ed è arrivata. È arrivata la risposta dell'Inter all'ora di pranzo, in una partita, come si diceva prima, piuttosto bizzarra, con il Parma. Dopo, tra il quarto e il 36esimo, avevamo già visto 4 gol, il primo del Parma con Crespo, poi la doppietta di Stankovic. Di nuovo Crespo al 36esimo del primo tempo, che si è chiuso sul 3-2, e nella ripresa Motta e di nuovo Stankovic, che si è portato a casa il pallone di questa partita. Fossimo in Inghilterra, si sarebbe portato a casa quel pallone. Tripletta per lui e 3 punti per l'Inter, per Benitez e per Moratti, che gli aveva chiesti. Nel pomeriggio aspettavamo risposte dalla Lazio, che ospitava il Catania, e dal Napoli di scena a Udine. Napoli non pervenuto, ha perso 3-1. Ha giocato anche una brutta partita, almeno per un'ora, 2-0 all'intervallo con il rigore di Di Natale e una magia dello stesso Di Natale, il gol più bello della giornata, al 45esimo del primo tempo, con un destro in diagonale che si è infilato all'incrocio dei pali della porta difesa da De Santis, che peraltro ha provocato il rigore del vantaggio udinese. Quindi in apertura di ripresa lo stesso Di Natale, ma con l'ampia complicità di Mare Kanzic. Di Natale batte un corner dalla destra e Hanzik, appostato sul palo, allarga le gambe facendosi passare sotto il pallone che si infila alla sua porta. Lo stesso Hanzik un minuto dopo segna il gol che accorcia le distanze, anche qui gol molto bello con un destro secco da 20 metri. Ma poi si fa parare un rigore da Handanovic al 20esimo. C'è anche un'occasione fallita un paio di minuti dopo da Cavani, e lì praticamente muore questa partita, e muoiono anche le speranze del Napoli di accorciare le distanze sul Milan. La Lazio pareggia invece in casa 1-1 con il Catania, anche qui botta e risposta nel finale di primo tempo al 44esimo, colpo di testa vincente di Silvestre, Catania in vantaggio al 46esimo, quindi primo minuto di recupero, primo e unico minuto di recupero. Nel primo tempo Hernanes, con un destro in corsa, impatta la partita. Nel secondo tempo la Lazio prova a vincere, soprattutto con Zárate, non ci riesce, e nel finale rischia anche parecchio sui contropiedi catanesi. Finisce dunque 1-1. Il Cagliari vince 3-2 con il Lecce, che continua a imbarcare un sacco di gol. 3 ne ha presi dopo 28 minuti di gioco, tra il sesto e il 28esimo per la precisione. Il Lecce ha incassato subito 3 gol, doppietta di Matri al sesto e al 15esimo, e gol di Carini al 28esimo. Nel secondo tempo il Lecce prova a scuotersi, segna Oliveira al nono in azione personale e poi Di Michele al 35esimo, ma non riesce il Lecce De Canio a rimettere in piedi questa partita, per la gioia dell'ex CT Donadoni, che tra l'altro sto vedendo ora ai microfoni di Sky. È un po' che parla Donadoni. Sono un po' così perplesso, perché il fatto che mi raccontino già delle bugie non mi piace. Io sapevo di Messi. Sta dicendo di vabbè. Sta dicendo, ma è vero che il Cagliari sta trattando Cassano? E Donadoni risponde: no, solo Messi. Quindi, no, per essere seri. Come ha già dichiarato la società, come gli viene il presidente, meglio, peraltro, non o no? C'è assolutamente nulla di vero in questo, e quindi è un sogno, resta un sogno anche per Donadoni. Beh, insomma, avere Matri, avere acqua fresca con Nenè e Ragazzo, non è che stiamo malissimo come attaccanti, quindi va bene così, e teniamoci stretti i nostri, che sono giocatori che devono ancora crescere, migliorare, e possono fare molto qua. Questo Donadoni, cui non viene benissimo il cabaret, comunque mi sembra che Cassano a Cagliari sia poco più di una buttata di fantasia. 0-0 tra Brescia e Genoa sotto la neve, non si gioca invece causa neve, anzi si gioca a palle di neve con le solite immagini che vedrete magari stasera. Bologna-Chievo rinviata, data da destinarsi, anche perché non si può giocare domani, dato che il Chievo martedì giocherà con il Novara in Coppa Italia. Finisce 1-1 tra Bari e Cesena, con tutto che accade in un paio di minuti tra il 17esimo della ripresa, fallo di Donati su Gimenez e rigore trasformato da Colucci per il vantaggio del Cesena, e il pareggio che arriva al 19esimo con un cross dalla destra di Rivas, cross basso e Caputo in anticipo che di piatto segna suo primo gol, questo attaccante del Bari, che subito dopo, qui l'episodio più divertente se vogliamo della domenica, nell'esultanza Caputo tira un destro in piena faccia a un compagno di squadra, travolto dall'esultanza, lo vedrete stasera, non potrete fare a meno, come ho fatto io, di cadere dalla seggiola dal ridere, perché è stato un episodio davvero piuttosto comico. Sta per parlare Mazzari, sono curioso di sentirlo. Oggi un bruttissimo Napoli, un Napoli anche piuttosto cattivello nella prima ora, picchiato parecchio, guidato da Cannavaro, ha giocato poco a calcio e ha subito 3 gol in un'ora. Insomma, tutto il peggio, forse stagionale per il Napoli. Sentiamo Mazzarri. No, non è vero che siamo stati riconoscibili, è vero che c'era una squadra forte davanti, che si è messa bene in campo, che alla prima occasione in contropiede è riuscita ad andare in vantaggio, ha avuto appunto la possibilità di giocare di rimessa, e un campo dove alcuni giocatori nostri non si sono espressi come di solito, si è fatto più fatica, ogni palla persa si poteva rischiare di prendere gol, e quindi questo è il calcio. Gli episodi, come ho detto anche col Bologna quando si è vinto, condizionano poi alla fine tutta la partita, no? Oggi poi nel secondo tempo abbiamo fatto tanto, abbiamo creato tanto, e si capiva che era scritto che oggi si dovesse perdere, perché il sintomatico è il 3-0 su un calcio d'angolo dove Marek doveva rinviare di piatto e si è andata in porta da sé, e poi sbagliare il rigore. Insomma, si capisce che non era giornata, e va bene così, si può anche perdere a Udine contro una squadra forte che gioca anche bene, quindi il calcio è questo. Si poteva, se si va a analizzare l'andamento della gara, sicuramente non rispecchia il 3-1 che è poi emerso dal campo. Contro Di Natale, le ultime due partite. Questo è Mazzarri che non è d'accordo sull'analisi che ho fatto io, ma anche qualche collega lì dalle parti di Sky. 800 24 00 24, numero verde. C'è chi scrive invece via sms 349 238 6666. È stato interessante leggere l'intervista sulla Gazzetta a Luis Faria, vice di Mourinho, il quale dice: con pochi veri che lo staff tecnico di Benitez è un branco di incapaci. C'è anche Benitez che ho già risposto su questo argomento, dicendo: io non vedo il Grande Fratello e non pensavo che Rui Faria lavorasse al Grande Fratello. Questo perché? Perché, dice Benitez, mi hanno riferito che ha detto qualcosa, ma io sono un professionista con etica professionale, non parlo di altre squadre, di altri staff, se non conosco la loro realtà. Non sapevo, appunto, dice, che Rui Faria lavorasse al Grande Fratello. Non lavora probabilmente al Grande Fratello, però, come ben sappiamo, Mourinho e credo anche Rui Faria, questo non lo so perché nemmeno io lavoro al Grande Fratello, sono costantemente abbonati a Interchannel, quindi seguono con attenzione e non so se con affetto, di nuovo, con rinnovato affetto, la loro ex squadra. 800 24 00 24, torniamo subito. Strade in diretta. Ancora la massima prudenza tra Emilia e Toscana, continua infatti a nevicare sull'autosole tra Fiorenzuola e Barberino di Mugello. Sul tratto appenninico si formano code all'altezza di Barberino in entrambe le direzioni. Code in A1 anche tra Firenze Scandicci e Firenze Nord. La polizia stradale sta effettuando la regolazione del traffico verso Bologna a causa neve. Posti di controllo per il traffico e code anche in direzione opposta a Bologna a Casalecchio. E nevica anche sulla A21 tra Castelvetro e Piacenza, sulla 15 della Cisa tra Parma e Pontremoli, in Friuli sulla 23 tra Carnia e confine di Stato e sulla 22 tra Rovereto e il Brennero. E sulla stessa 22 ci sono 4 chilometri di coda all'interno di un cantiere tra Rovereto Nord e Alavio verso Modena, dove sta tra l'altro nevicando. E dove non nevica piove, a tratti anche forte al centro, nelle Marche ci sono tratti allagati sulla 14 Adriatica tra Fano e Senigallia. Infine sulla Firenze e Pisa Livorno ci sono code per un incidente tra Firenze e la Strassigna verso Livorno. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. C'è chi tra i nostri ascoltatori, come Mauro, invia un sms in cui un sms di attesa del primo rigore contro il Milan, scrivendo: allora diciamolo, se ogni tanto danno un rigore contro il Milan, allora non sono 7 punti di distacco. Chiaramente in versione tifoso, Mauro, chiaramente il rigore contro il Milan non è arrivato, mi sembra che ieri non ci fossero nemmeno grandi elementi per questo. E a proposito di arbitri, c'è anche chi scrive: buongiorno, ma visto che oggi Napoli ha perso, Mazzarri non si lamenta dell'arbitro? Non credo possa lamentarsi dell'arbitro oggi Mazzarri. Io fossi lui mi lamenterei della sua squadra, però non, a quanto pare non l'ha fatto, abbiamo sentito prima C'è anche chi, come Paolo dalla provincia di Milano, sottolinea che il mettere Digno, Ronaldinho, a 4 minuti dalla fine è un po' umiliante. Concordo, un po' umiliante, un po' punitiva, per questo che prima, parlando con Andrea Schianchi, dicevo gestione un po' simile a quella che spesso Capello riservava a Del Piero a un certo punto, una gestione simile a quella che è stata riservata anche a Baggio in altre occasioni e sempre sulla sponda juventina. Classifica, a proposito, ve la leggo subito e poi vi faccio sentire qualche voce sull'anticipo di mezzogiorno di oggi, che ci offre un po' di temi di discussione che poi svilupperemo insieme. Dunque, il Milan a 30 punti, la Lazio che non riesce a mangiargliene un paio perché pareggia, come ha fatto il Milan, 1-1 in casa però con il Catania, e quindi sale, sì, ma solo a 27. A 24 troviamo la coppia che stava scritta stamattina sui giornali, cioè Juventus e Napoli. Juventus, dopo il pareggio di ieri, che secondo me non è una diminuzio per la Juventus, che si è trovata subito sotto, ha giocato una partita di grande carattere. Voi direte sì, ma si è visto che manca un pizzico di qualità, e questo è vero, e vediamo se a gennaio viene colmata questa lacuna. Se così sarà e se la Juventus manterrà questa fame e anche questa condizione atletica, ecco che secondo me la Juventus diventa, torna ad essere o sarà ancora di più, mettetela come volete, una squadra da scudetto. Viste da dietro la porta, cosa che l'arbitro non poteva fare, le immagini del rigore a favore dell'Udinese per il fallo di De Santis su Sanchez, ci sono, credo, discussioni. Mazzarri? Delle tue parole, perché il Napoli questo dovrebbe evitarlo, perché di solito è la squadra che sfrutta lo spazio, no? No, sì, noi si sfrutta lo spazio quando ci si abbassa, ma noi siamo anche una squadra, se molte partite si tiene il 70% del possesso palla, vuol dire che si fa noi la partita. Noi siamo partiti molto bene qui, siamo partiti facendo la partita, si attaccava, noi ogni tanto si attacca in troppi e ci si scopre. Oggi, se voi andate a vedere come è nato il primo gol dell'Udinese, Lavezzi, che gli avevo detto di stare a sinistra, ha cercato una percussione centrale, loro si sono chiusi bene, ci hanno rubato palla e negli spazi sono andati in contropiede. Poi magari poteva anche, se Morgan non si butta per niente, lo accompagna, può darsi non venisse il gol, e la partita, ripeto, se voi l'avete vista tutti, siamo partiti molto bene, col piglio della squadra autoritaria che va fuori casa a imporre il proprio gioco, si dava la sensazione insomma di mettere in difficoltà l'Udinese. Ma poi non lo so, sarà anche andata così, posso giudicare in maniera molto parziale, a me a sensazione il Napoli di oggi non è piaciuto quanto a Mazzarri. Napoli che resta 24 con la Juventus, Inter 23, e fin qui è l'unica che si avvicina al Milan in attesa della Roma questa sera. Gioca a Palermo, ne ha 22, il Palermo ne ha 20 insieme a Sampdoria e Udinese. A 19 c'è il Chievo, quindi Catania Genova 18, Cagliari 17, Fiorentina 16, Parma 15, Bologna 14, Brescia Cesena 12 insieme a Lecce, Bari 10. Come sapete Bologna e Chievo non hanno giocato, Roma-Palermo lo faranno stasera, eccetera. Vorrei tornare sull'Inter, vi faccio sentire Benitez con Sky dopo la partita. Sì, iniziamo primo per me, voglio ringraziare alla curva, perché in questo momento di difficoltà sempre sono dietro la squadra, in questo caso dietro da me, e questo mi piace moltissimo. Mi è piaciuto molto le giovani, Natalino, che l'ha fatto bene, mi è piaciuto vedere in campo a Mota, mi è piaciuto l'sforzo della squadra in una situazione di difficoltà. Molto contento per Stankovic, perché sempre parliamo che lui ha un tiro fantastico e deve usarlo di più. Sono tante cose che mi hanno piaciuto, che sono contento. Questo era Rafa Benitez. Io invece saluto e ringrazio Antonio Bartolomucci, collega di Mediaset, che oggi era a bordo campo per Inter Parma. Ciao Antonio. Buonasera a te, buonasera a tutti. Come l'hai vista l'Inter da bordo campo oggi? Un Inter migliore? È un Inter straordinariamente curiosa, nel senso che all'inizio della partita, per i primi 15-20 minuti, ho avuto la sensazione che si potesse assistere ad un ennesimo capitombolo. Poi io credo che sia girata soprattutto la fortuna all'Inter, perché ho visto tante altre occasioni con 10, 9, 7 conclusioni nitide che però in porta non entravano. Stavolta, primi due tiri, due autoreti, perché è inutile parlare, sì, due tiri molto belli di Stankovic, però uno deviato in maniera netta che ha spiazzato il portiere, l'altro deviato sempre in maniera netta, un po' meno diciamo comunque ha spiazzato il portiere e quindi l'Inter è passata in vantaggio. Poi ha trovato il gol di Cambiasso, che non è pulitissimo un gol sporco. Sì. Io sono molto critico spesso con l'Inter, per cui credo che vadano dette le cose così come, certo, come andavano. Certo. E poi il 3-2. Sul 3-2 anche nel secondo tempo la partenza è stata molto forte del Parma, che è andata vicinissima al pareggio, e niente, poi le castagne le ha tolte in qualche modo Stankovic e Motta, che certo, è entrato anche in questo caso, il giocatore entra e segna, non era mai accaduto. Credo che per la prima volta l'Inter ha fatto un po' i conti e ha visto che era in credito con la fortuna, si è preso tutto quello che non aveva avuto fino a questo momento e è andato a casa con un 5-2, sì, guadagnando su tutti, 2 punti su tutti. Certo, Antonio, ha trovato anche un 12° giocatore vestito di bianco, molto magro, cioè il palo alla sinistra di Castellazzi, nella porta sotto la curva sud milanista. Io credo che veramente in questa partita si può leggere tanto dell'Inter. Si può leggere, per esempio, tramite l'anagrafe e le date di nascita, che questa un tempo dicevano del Milan di Larzilla, no? Se tu consideri 37 Materazzi, 37 Zanetti, 35 Castellazzi, 34 Cordova, e potremmo anche chiamarli vecchietti, però più o meno hanno funzionato, c'è stata qualche piccola sbavatura, ma la cosa più bella che io leggo in questa partita è Natalino, Felice, sì, Natalino, che ha giocato con l'autorità di un grande, anche Nuancu, Viola, che si muove anche molto bene, e Biani, che è stato forse uno dei migliori nel primo tempo perché ha corso molto, ha messo in difficoltà gli avversari che lui conosceva molto bene. Sì. Penso che fra questo mix, questa combinazione fra anzianotti e giovani abbia funzionato e dia all'Inter la possibilità di credere che se con questi vince 5-2, comunque se comincia a recuperare, quando rientra per esempio Giulio Cesar, Maicon, Milito, lo stesso Eto'o e via discorrendo, forse cambierà la musica e ritornerà, sì, quella squadra che era stata plasmata da Mancini, era stata caratterizzata da Mourinho e credo che possa essere reimpostata proprio da Benitez. Sì, che ha comunque, continua a ripeterlo, ha avuto secondo me un po' troppa fretta nel reimpostare questa squadra, nel resettare la squadra di Mourinho, nel voler costruire subito una squadra come piace a lui. Fosse magari avesse usato un po' più di italica furbizia, cosa che Mourinho aveva fatto, avrebbe ridisegnato la squadra alla Mourinho, almeno per un po', no? Se leggiamo la storia, però, non ha avuto mai la possibilità vera, tranne nei primi 2-3 incontri, sì, che comunque col Bari 4-0 e anche 4-0 col Werder Bremen, cioè il 4-2-3-1 lasciato in eredità da Mourinho, lui l'ha mantenuto, ma non ha mai avuto Maicon a tutti gli effetti, Zanetti all'inizio che poi è rientrato, che serve come il pane, non ha mai avuto un Milito nelle condizioni dello scorso anno, non ha mai avuto un Giulio Cesar nelle condizioni dello scorso anno. Ti sto parlando di portiere esterno destro che scende molto e realizzatore, che guarda caso tutti e tre messi nell'ordine a Monte Carlo quest'estate hanno preso il titolo di migliori giocatori nei rispettivi ruoli e Milito migliore di tutti proprio dall'UEFA per quanto hanno fatto l'anno scorso, e che l'anno scorso, come quelle belle arance, quei tarocchi di Sicilia, li hanno spremuti al punto tale che ovviamente un'altra stagione a questo livello, sì, non poteva essersi. Attenzione, oggi Schneider, che ha totalizzato la gara numero 65 in quest'anno, si è fatto male alla pianta del piede e si corre il rischio di non vederlo venerdì a Roma contro la Lazio, e quello sarebbe un altro grande danno, perché che ne dicano che Schneider non sta giocando grandi partite, è comunque un fulcro del centrocampo che permette alla squadra di risalire, di impostare l'azione, no, non c'è dubbio, e di creare i movimenti. Non c'è dubbio che sia così, infatti uno dei problemi dell'Inter è proprio la mancanza di continuità di Schneider, cosa che l'anno scorso aveva in abbondanza. Antonio, ti chiedo ancora questo: visto da bordo campo, visto da poca distanza, Benitez è un allenatore tranquillo in questo momento oppure no? Ha perso la tranquillità la settimana scorsa alla vigilia della partita con il Twente, sì, l'ho visto veramente diverso, io lo vedo praticamente, non dico tutti i giorni, ma qua vedo più lui di mio fratello, insomma, per cui ho imparato a distinguerne i movimenti. Ci sono 2 o 3 segreti di Benitez: lui quando è in panchina muove ste manine in maniera particolare perché vuole la squadra più compatta, più corta, più elastica, Ebbene, con il Twente siamo passati dalla prima fase, dove era molto preoccupato, ad una fase quasi rassegnato, che era seduto in panchina, e alla vigilia in conferenza stampa aveva detto: vinciamo. Era partito con domani molto importante, aveva continuato dicendo dobbiamo cercare di vincere. Alla fine, all'ennesima domanda che gli facevano sulla pazienza di Moratti, lui ha detto: beh, domani vinciamo, sono sicuro, e cambia tutto per noi. È accaduto, cosa che generalmente non è che accade spesso, sì. È accaduto proprio questo, e credo che come nel calcio succede, guarda, io mi ricordo Machiavelli, corsi storici, queste cose qui, sì. Nel calcio accade che gira la carta e comincia ad andarti tutto bene. Verissimo. Adesso credo che sia arrivato questo momento. Verissimo, come è vero il contrario, ti gira tutto contro e allora prendi i pali invece di fare gol, eccetera, eccetera, hai ragione. Grazie Antonio, buon lavoro! Grazie a voi, buon calcio. Grazie Antonio Bartolomucci. Primo ascoltatore di oggi, Giovanni dalla provincia di Catanzaro, 800 24 00 24 è il numero verde. Poi ci tengo a farvi sentire anche un'intervista a Hernan Crespo, che ripeto, oggi ha segnato due gol, ok, è salito a 146 come un suo conterraneo e predecessore piuttosto noto, Omar Sivori, nel nostro campionato. Hernan Crespo, che è il padrone di casa di Rafa Benitez, perché come ho detto prima, Rafa Benitez abita nell'appartamento di proprietà di Crespo e dunque Crespo, dopo questi due gol, non credo possa aumentargli l'affitto a breve termine, insomma. Giovanni, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i radiospettatori. Senti, io volevo parlare un po' del Milan. Prego. Anche della partita di ieri. Tengo a precisare che la partita di ieri è stata, secondo me, la migliore partita che ha fatto il Milan. Io come ha detto Allegri, l'ha detto anche Allegri. Ecco, perfetto, ci troviamo. Ecco, però ecco, due cose volevo chiedere. Uno, un po' ecco, la gestione dei cambi. Come anche un altro radioascoltatore ha detto, non pensa che sia venuto un po' tardi e mettere forze fresche, visto che avevamo giocato martedì in Coppa, sarebbe stato più opportuno mettere anche Ronaldinho, che ha dimostrato anche nella partita di Coppa che al primo pallone che ha toccato ha fatto gol, al di là che, ecco, sono d'accordo che mettere un campione leggero a 4 minuti della fine non sia stato tanto... Sì, insomma è stato punitivo, è stato chiaramente punitivo nei confronti di Ronaldinho, bravissimo comunque a dimostrare grande professionalità, come già aveva fatto in Champions League, entrando e trovando anche questo gol meraviglioso, quanto fortuito se vogliamo, nel momento della partita. Posso rispondere come ha fatto prima Andrea Schianchi, li ha visti lui, e poi il Milan non sembrava una squadra con problemi di tenuta ieri, tanto che aveva, come ricordava Andrea Schianchi, appena fallito un paio di azioni in contropiede e i giocatori stavano ancora girando. Poi sulla gestione decide Allegri. Certamente mettere un giocatore come Ronaldinho a 4 minuti dalla conclusione è vagamente punitivo nei confronti del giocatore che si porta in campo, oltre alla sua frustrazione, anche un passato piuttosto e una storia piuttosto e uno stipendio piuttosto ingombrante, insomma. Certamente la gestione è questa. Non so se sia un messaggio che Allegri vuole dare allo stesso Ronaldinho, un messaggio che vuole dare alla squadra. Qui chi non lavora duro, chi batte un po' la fiacca, non entra in campo e subisce di questi trattamenti, questo non lo so, e Allegri non nemmeno lo dirà chiaramente. Certo è che insomma, far entrare una Digna a 4 minuti alla fine mi ricorda, come ho detto prima, Del Piero che viene fatto scaldare da Capello a 3 minuti dalla fine di una partita sul 3-0, insomma. 800 24 00 24, vi aspettiamo qui. Davanti a voi il Big Ben, la celeberrima torre pendente. Famosa in tutto il mondo per il suo potente rintocco, risveglia da secoli gli abitanti della capitale britannica, Pisa. I suoi orologi segnano costantemente l'ora sbagliata, perché la forte inclinazione della torre fa andare le lancette sempre un quarto d'ora in avanti. Goditi due capolavori in una volta sola. Ti aspettiamo negli showroom Saab con la gamma 9.3 e la nuova Saab 9.5. Le auto che esprimono il massimo della sicurezza e del piacere di guida. Tutte con motori Euro 5. Signorina, il mio computer è lento. Non solo il suo, direttore, si stanno lamentando tutti. Il lavoro rallenta, il business non decolla. I tecnici che dicono? Bisogna cambiarli tutti. Facili per loro e i costi. Lo sapeva che con HP Trade-in si rinnova risparmiando? Acquistando un nuovo PC HP è possibile infatti ricevere fino a 400 euro di valutazione per i computer usati di qualsiasi marca, modello e tecnologia. E allora che aspettiamo a rinnovare con HP? HP Trade-in 840 26 92. Nuova linfa al nostro business. radio.hp.com. Amore, lo so, è tutta colpa mia, la vacanza, il naufragio. Farei di tutto per farmi perdonare. Proprio tutto? Tutto, tutto. Allora aspettami sotto la palma con tutti gli affettati spuntino 024 Beretta. Sei 024 Beretta, hai tutto. 024. Nel mio ristorante ho una ricetta esclusiva, non solo in cucina. Ho scelto Soluzione Impresa di Fastweb. Hanno il menu perfetto per chi come me ha la partita IVA. Ricevo prenotazioni su internet e ho anche il telefono a soli 15 euro al mese e il servizio clienti 24 ore su 24. Grande Fastweb. Fai fare un passo avanti al tuo business. Vai su fastwebsoluzioneimpresa.it o chiama 192-192. Personalità. Istinto. Oxido. I tuoi occhiali. Solo dagli ottici Green Vision. Acquistando un occhiale Oxido riceverai con un euro in più una montatura da vista della nuova linea Green Vision. Informati. 800 700 100. Ok, l'imbragatura è a posto. L'elastico è allacciato ai piedi. Perfetto. Al mio 3 puoi lanciarti dal ponte, ok? Ok. Se vuoi divertirti ancora di più, stacchiamo l'elastico e ti lanci senza, eh? Ma no, aspetta! Dove vai? Senza sicurezza c'è poco da divertirsi. Subaru Forester Widget. Tua da 25.980 euro. Oggi anche con un finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 470 euro. TAN 29 TAEG 383 fino al 31 dicembre. Salvo approvazione istituto erogante. Info negli showroom Subaru aderenti. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Intensa perturbazione che ha attraversato oggi l'Italia, domani si allontanerà e avremo quindi un tempo migliore su gran parte della nostra penisola. In particolare le schiarite saranno piuttosto ampie al nord, specialmente a nord-ovest, fin dal mattino. Ancora qualche isolata precipitazione nelle prime ore della giornata sull'estremo nord-est. Sull'Italia centrale ampie zone di sereno, soprattutto lungo l'Adriatico, qualche pioggia al mattino nel Lazio. Al sud nuvolosità variabile senza precipitazioni di rilievo. Bel tempo su gran parte della Sicilia per tutto il giorno. Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità di nuovo da ovest, sia sulla Sardegna sia sulle regioni centrali a partire dal Lazio, dove potrà verificarsi nuovamente qualche debole pioggia, specialmente in serata. Le temperature sono senza variazione di rilievo, i venti soffieranno ancora da ovest o sud-ovest con moderata intensità. Per il meteo è tutto, altri dettagli sul sito meteo.it. La ricetta di oggi: mescolate uova, farina, qualche tonnellata di carta stampata fresca e aggiungete il burro e almeno 600 ore. Scaldate il forno con le presentazioni e i dibattiti e fate cuocere a Roma, al Palazzo dei Congressi dell'EUR, dal 4 all'8 dicembre. È pronta Più Libri Più Liberi, fiera della piccola e media editoria. Per voi divoratori di libri. Dietro una buona notizia c'è un'edizione straordinaria Iveco Days. Fino al 15 dicembre, check-up gratuito, sconti sui ricambi e il concorso Iveco Days. Regolamento su iveco.it. Iveco Days, 100% ricambi originali, 100% professionalità. Torna Glenn Gould, il genio più eccentrico ed emozionante del pianoforte. The Glenn Gould Gold Collection. Mozart, Bach, Beethoven. Due ore di superbe interpretazioni, raccolte per la prima volta in uno splendido e nobile album di due CD con 200 pagine a colori. La poesia del pianoforte non è mai stata così preziosa. The Glenn Gould Gold Collection è un'esclusiva Sony Classical, nei negozi di dischi. Non mi sposi più. Ma, Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai. Pucci, tu sei il solo. Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Davanti a voi il Big Ben, la celeberrima torre pendente. Famosa in tutto il mondo per il suo potente rintocco, risveglia da secoli gli abitanti della capitale britannica, Pisa. I suoi orologi segnano costantemente l'ora sbagliata, perché la forte inclinazione della torre fa andare le lancette sempre un quarto d'ora in avanti. Goditi due capolavori in una volta sola. Ti aspettiamo negli showroom Saab con la gamma 9.3 e la nuova Saab 9.5. Le auto che esprimono il massimo della sicurezza e del piacere di guida. Tutte con motori Euro 5. A tempo di sport. Tanto c'è il presidente della Lega Calcio Maurizio Beretta, che ha approfittato della giornata di oggi caratterizzata dalla neve con la sospensione della partita di Bologna per tornare sull'argomento stadi inadeguati. Io personalmente non mi sento di dargli torto, bastano quattro fiocchi di neve. Oggi a Bologna è iniziata a nevicare, se non sbaglio, alle 13, e questa partita non si è giocata, evidentemente non si era attrezzati a sufficienza per permettere il gioco, come già era successo l'anno scorso, ricordo, a Bologna. Beretta ha detto: il sistema degli stadi non funziona, bisogna andare verso impianti di proprietà o profondamente ristrutturati, e condivido per quanto mi riguarda. Non so voi, 800240024. Sentiamo Giampaolo, che oggi ha fermato la Lazio. La squadra cresce, la squadra migliora e secondo me possiamo fare ancora meglio. Quindi arrivano i complimenti, arrivano i punti, manca ancora qualcosa lì davanti. Oggi Morimoto probabilmente un po' troppo solo. Morimoto intanto giocava la prima partita in assoluto e è stato in grado di giocarla per 65-70 minuti, non ricordo quanti. E poi abbiamo anche dovuto gestire con qualcuno l'incontro di giovedì sera, no? In Coppa Italia. La nostra è una squadra poco abituata a giocare tre partite in una settimana, almeno 4-5 undicesimi hanno dovuto rigiocare, quindi rispetto alla Lazio sul piano del recupero psicofisico avevamo qualcosa in meno, però siamo stati bravi a fare la partita di grande attenzione, a non rinunciare a pungere. Chiaramente contro, ripeto, la Lazio, che in questo campionato sta dimostrando tutto il suo valore. Studio. Questo è Giampaolo, che oggi non aveva giocato Morimoto perché non c'era Maxi Lopez, e mi sembra che questo un po' di differenza in una squadra come il Catania la faccia. E poi va anche aggiunto che nel finale, come ricordavo prima in cronaca, il Catania ha avuto un paio di occasioni in contropiede per far secca la Lazio e le ha sbagliate. Probabilmente per mancanza di un giocatore come Maxi Lopez. Dunque adesso vorrei tornare alla partita dell'ora di pranzo, perché Giovanni Capuano ha realizzato anche un'intervista con Mr. Hernan Crespo. Ve la faccio sentire. Sì, sinceramente è un risultato bugiardo. È dura spiegare un 5-2, soprattutto come è andata la partita. Però al momento che affronti una grande squadra, i piccoli errori li paghi molto caro. Noi comunque ci teniamo stretto alla grande prestazione offerta. Oggi intanto a San Siro tra i tifosi dell'Inter hanno detto: quel Crespo lì, forse ci servirebbe ancora. No, ho già dato, i ragazzi comunque hanno dimostrato di meritare l'Inter, hanno ottenuto delle grandissime vittorie, magari un periodo era un periodo un po' difficile, adesso purtroppo per il Parma no, e adesso hanno accorciato le distanze in classifica, quindi ci ritroveranno sicuramente. Tu che conosci questo ambiente, com'è che l'hai visti? Ad esempio a me ha colpito molto Stankovic, cioè la vecchia guardia che in questo momento sta un po' prendendo per mano il gruppo. È normale, in momenti così ci vuole. Momento di difficoltà per una serie di infortuni, per una serie di cose, ha fatto sì che non riescano a esprimersi ad alti livelli, ma è sempre l'Inter, sono sempre giocatori da rispettare, sono grandi giocatori. Basta leggere il nome della formazione di oggi, ci sono i giocatori che veramente sono dei grandi, quindi dobbiamo rispettarli prima di criticarli. Questo era Hernan Crespo. Cerei invece che dice: c'è molto rammarico per non aver approfittato dei pareggi di Milan e Juventus e della sconfitta del Napoli, ci dispiace per come è andata contro il Catania, ma il pareggio ci può anche stare, eccetera eccetera. C'è invece Brocchi che sta parlando in diretta con Sky. Non ci dà la possibilità di fare a pieno il nostro gioco, e nonostante questo comunque abbiamo creato qualche occasione, quindi dobbiamo essere comunque da un certo punto di vista contenti, perché magari in altre circostanze è una partita che rischiavi anche di andare a perdere, invece abbiamo rischiato di vincere, abbiamo guardato a casa un punto che sì, lascia un po' l'amaro in bocca, però diciamo che comunque siamo contenti fino ad oggi di quello che abbiamo fatto. Amaro in bocca anche per le tante occasioni che avete creato. Reia si era un po' lamentato in settimana, aveva detto: la differenza tra la Lazio e le altre squadre è che le altre concretizzano di più, noi abbiamo un problema di gol, e anche oggi si è visto. Sì, anche se magari le altre squadre fanno più gol, però la Lazio magari ha un collettivo molto, molto forte, lo dimostra la classifica, che comunque i punti sono tanti, le partite giocate bene sono comunque tante, e quindi logicamente ancora non siamo in grado di poter fare tutto, non siamo ancora una squadra che può ritenersi perfetta in ogni sua giocata, in ogni sua situazione di gioco, però possiamo ritenerci soddisfatti sicuramente di quanto siamo migliorati rispetto alla scorsa stagione. Questo è Brocchi al microfono di Sky. 800240024, vostro numero verde. C'è anche chi scrive, Alessio da Treviso: ma perché parlare di forze fresche, naturalmente in riferimento al discorso che si è fatto prima sul Milan e sui cambi molto tardivi, non so quanto punitivi, di Allegri, nel caso di Ronaldinho naturalmente, comunque sul fatto che Allegri insiste su questi 11, non sta facendo nulla di diverso, come d'altra parte il nostro ascoltatore sottolinea, da quanto stanno facendo ad esempio Mourinho, ad esempio Guardiola al Barcellona. L'ascoltatore scrive: ma perché non li facciamo allenare di meno? Il Barcellona ha una rosa come numeri uguale a quella delle nostre grandi, ma giocano sempre gli stessi. Allenare di meno o allenare in maniera magari differente, come è stato sottolineato anche in settimana dallo stesso Andrea Schianchi, che prima è stato nostro ospite sulla Gazzetta, in questa settimana ha fatto un reportage sul fatto che, insomma, gli, sfatando un po' di miti, che gli infortuni sembrano essere un problema prettamente italiano. Non so se questo dipenda dai campi, dalle tecniche di allenamento, eccetera eccetera eccetera. È chiaro che in Spagna ci si allena in maniera molto differente, a partire dal settore giovanile, no? Come sottolineano quelli delle cantere del Barcellona e del Real Madrid, ma da noi meno palestra e più pallone, perché si rinforzano i muscoli facendo, magari si rinforzano meglio i muscoli facendo magari 40 tiri in porta piuttosto che non lavorando con le macchine. Fatto sta che quello degli infortuni così a catena, così seriali, sembra essere un problema molto italiano in questo periodo dell'anno. Un problema molto italiano è anche quello del Bologna, che oggi non ha giocato, che oggi ha, insomma, si è un po' divertito con le palle di neve, forse per stemperare la tensione del momento. È chiaro che il Bologna, società, sta vivendo una situazione, ripeto, molto italiana. Ne ha parlato Emilio Butaro con Malesani dopo questa, insomma, queste palle di neve. Sentiamo cosa dice Malesani sulla situazione del Bologna. Alberto Malesani, le è dispiaciuto non poter giocare questa gara? Ci dispiace perché oggi veramente era il momento forse migliore da quando sono arrivato a Bologna, proprio come sentire la squadra, proprio la carica che c'era dentro in questi ragazzi. Tutti quanti eravamo sul pezzo, eravamo vogliosi di iniziare questa gara che per noi, per come ci siamo arrivati, era importante. Mi è dispiaciuto tantissimo oggi non giocare. Credo che ci sia stata un po' di sfortuna oggi, perché eravamo veramente giusti. Era anche una bella risposta, da uno stimolo forse, perché in questi giorni magari stimolavi anche chi magari è interessato ad acquisire questa società, o anche il presidente a proseguire. Ecco, in tutti e due i casi fare una bella vittoria era da aiuto e da stimolo anche per altre cose, insomma, secondo me. Ecco, questo momento particolare rafforza l'unione che c'è tra tecnico, giocatori e tifosi? Credo che proprio è un patto d'onore il nostro. Noi abbiamo lasciato alle spalle tutti i problemi societari, ce li siamo lasciati alle spalle, viviamo la nostra realtà tra di noi, che vuol dire non solo staff tecnico e giocatori, vuol dire le maestranze, i magazzinieri, i massaggiatori, i dottori, tutti quanti siamo un bel gruppo unito adesso, che lasciamo agli altri risolvere i problemi che li competono, perché adesso sono gli altri che devono risolvere i loro problemi e noi dobbiamo risolvere quelli del campo. Questo era Alberto Malesani, e questo che sta arrivando invece è il traffico. Salve, sono il numero 4, vengo dopo il 3 prima del 5. Sono un numero composto con divisori. Buongiorno, sono il 980. Io sono importante perché rappresento il numero delle richieste di informazioni su aziende italiane evase ogni minuto dalla banca dati di Cervet Group. Cervet Group è la prima information company integrata, leader nel campo della business information. Affidabilità, efficacia e immediatezza. Conta sull'informazione. Cervet Group. Conoscere per decidere. www.cervetgroup.com. Strade in diretta. 17.46, il maltempo condiziona la circolazione in queste ore domenicali su gran parte del centro-nord, in particolare tra Emilia e Toscana. Continua infatti a nevicare sull'autosole tra Fiorenzuola e Barberino di Mugello. Sul tratto appenninico dell'autosole si formano code all'altezza di Barberino in entrambe le direzioni. Code in A1 anche tra Firenze Certosa e Firenze Nord. Qui la polizia stradale sta effettuando la regolazione del traffico verso Bologna a causa neve. Posti di controllo per il traffico e code anche in direzione opposta a Bologna-Casalecchio, quindi verso Firenze. Nevica anche sulla 21, prudenza tra Castelvetro e Piacenza, sulla 15 della Cisa tra Parma e Pontremoli, in Friuli sulla 23 tra Carnia e Confine di Stato e sulla 22 tra Trento e il Brennero. E sulla stessa 22 del Brennero ci sono 4 km di coda all'interno di un cantiere tra Rovereto Nord e Alavio verso Modena. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Perché scrive, leggo sui giornali che alla Juve serve una punta da 20 gol, ce l'aveva adesso in Spagna, ma poi a gennaio chi trovi con questo score? Vabbè, ma non è che si può andare avanti per l'eternità con Trezeguet, che tra l'altro costa un mucchio di soldi. Benissimo ha fatto la Juventus a cederlo in Spagna, adesso dovrebbe prenderne un altro, anche perché Amauri è ormai un lungo degente più che un giocatore. Magari quello che sta parlando adesso con Sky, che è Matri, che è un signor attaccante. Chissà, può essere un'idea. Oggi, come saprete, Radio 24 ha accompagnato anche la maratona di Firenze che il sindaco Renzi ha chiuso in 4 ore e 42 minuti, leggo dalle agenzie. Non so in quanto l'abbia chiusa Giuseppe Cruciani, mio amico e zanzara di Radio 24. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao Carlo. Com'è andata? Insomma, dura? Malino. Malino? Sì, malino, perché insomma avete visto tutti, avete seguito tutti, grazie ai collegamenti di Radio 24. Pioggia dall'inizio alla fine. Pioggia, freddo dall'inizio alla fine, 2 gradi, 2-3 gradi la temperatura, per cui sono arrivato un po' congelato, poco sotto le 4 ore, 3 ore e 57. Sono arrivato, quello, come sai, per gli amatori la cosa più importante non è, sicuro? Non è il tempo, ma è finire. Beh, intanto hai dato qualche giro al sindaco Renzi, che non so quanto sia allenato, insomma, tu lo sai di sicuro. Non mi mettere in competizione il sindaco Renzi, se non mi offendo, perché Renzi era la prima maratona, la mia era la 16ª, per cui il sindaco Renzi comunque ha avuto una grande forza, perché sì, all'inizio, ieri, era un po' tentennante. Prima maratona, in queste condizioni atmosferiche, arrivare a finirla la maratona con un tempo, poi per una persona insomma che certamente non fa sport quotidianamente, che si è allenato per questa maratona, con un tempo in realtà ragguardevole, per cui insomma grande volontà, ti dico, soprattutto per le condizioni atmosferiche. Io ho corso tante maratone, tante gare al di là delle maratone, e ti assicuro che non ho mai incontrato condizioni simili, cioè un'ora prima e un'ora dopo la maratona continuava ancora a piovere, è stato veramente complicato. Abbiamo visto oggi sui campi, no? Insomma, certo che fare le maratone alle soglie di dicembre tendenzialmente non aiuta, magari si può studiare un altro calendario. Però ti assicuro che naturalmente che per Firenze era una giornata eccezionale rispetto alle maratone dello scorso anno, la mia era la seconda a Firenze, l'anno scorso non c'erano queste condizioni, anche secondo gli organizzatori era la prima volta in tanti anni di maratona a Firenze che si presentavano condizioni di questo tipo. Al di là di questo, ancora una volta Firenze si è dimostrata una maratona organizzata perfettamente dal punto di vista tecnico e organizzativo, in uno scenario comunque formidabile, certo, qual è quello di Firenze, una maratona che si svolge tutta in città, molto bella. Caro Beppe, stasera sai già che a Controcampo ti toccherà riparlare del sindaco Renzi, non per le sue 4 ore 42, ma magari per aver parlato di Juventus squadretta con la maglia a bande, rinnovando questa antica rivalità alla vigilia. Il sindaco Renzi ogni tanto se ne esce con queste cose che sono più da curva che da personaggio delle istituzioni. La competizione tra l'antagonismo, la rivalità tra Juventus e Fiorentina la conosciamo tutti. Peraltro mi domando, leggendo oggi le cronache post partita di Juventus-Fiorentina, come sia possibile nello stesso tempo inventarsi la testa del tifoso, su cui si potrebbe discutere, e poi consentire ai tifosi della Fiorentina di andare a Torino. Cioè Juventus-Fiorentina con annessi, petardi e cose che so, tutto quello che è accaduto dopo, se c'è una partita in cui la presenza dei tifosi ospiti dovrebbe essere vietata per legge fino all'eternità e per le prossime 2-3 generazioni, questa partita è Juventus-Fiorentina. Però sai bene che se ti dicono la testa del tifoso serve per permettere di andare in trasferta, poi non puoi vietarle. Io sono contrario a tessera del tifoso perché sono contrario alle schedature tout court, quindi secondo me è abbastanza una pagliacciata, però... Certo, ma la testa del tifoso non proibisce all'osservatore del Viminale di decidere che in una partita non ci possono essere tifosi ospiti. Io credo che Juventus-Fiorentina sia uno di queste. Però sarebbe una contraddizione in termini, comunque, mi insegni Giuseppe. Cioè, facciamo la testa del tifoso e poi vietiamo le trasferte. Allora che la facciamo fare, che già non piace a nessuno. Senti, ma il pareggio della Lazio col Catania ti sorprende? Ma ho visto poco, adesso sto leggendo alcune dichiarazioni dopo. No, non mi sorprende, cioè può capitare. Il Catania è una squadra che certamente in trasferta finora aveva fatto poco, anche se aveva pareggiato a Milano, se non sbaglio, col Milan all'inizio del campionato, quando il Milan ancora un po' tentennava, quando il Milan ancora non era il Milan di adesso. Però ci può stare, certo, un Catania senza Maxi Lopez, molti si aspettavano una vittoria, ma la Lazio era Lazio, insomma, non è destinata, non è non ha ordinato nessuno che debba vincere ogni domenica. Lazio faccio campionato, questo punto comunque è un punto importante, anche se può essere considerato come dire un punto, si possono considerare due punti persi in teoria, perché in una giornata in cui tutti hanno pareggiato ci può stare anche il pareggio. No, insomma, francamente non mi sorprende, la Lazio in casa quando deve costruire gioco ha sempre qualche difficoltà. Sì, sai benissimo che stasera contro Campi toccherà parlare anche di Mourinho, non tanto per il classico quanto per le espulsioni pilotate. Non so se qui abbiamo la stessa idea. Ieri ne ho parlato, insomma, si è discusso molto in relazione a Mourinho, al fatto che quel gesto lo abbia fatto, perché l'ha fatto Mourinho, però si potrebbe discutere anche sul fatto che è una regola che andrebbe rivista, no? Questa delle... Sì, francamente sì, io credo che il difetto maggiore, al di là della furbata di Mourinho, che c'è tutto, naturalmente, anche se difficilmente dimostrabile, a meno che l'UEFA non convochi i giocatori e li metta sotto tortura. Giocatori... Eh? E li metta sotto tortura. Sì, li metto sotto tortura, però loro potrebbero tranquillamente dire che parlavano della moglie con il portiere, parlavano della fidanzata, non so che cosa, e non è dimostrabile il contrario, per cui è piuttosto complicato pensare ad una punizione o comunque ad una squalifica dei giocatori. Secondo me la regola mi pare assurda, cioè la regola è per la quale uno si porta dietro le squalifiche, le ammonizioni dalla prima giornata, certo. Certo, non sta né in cielo né in terra, però adesso tutti a dare addosso a Mourinho perché l'ha smascherata questa regola. In realtà, a guardarla da fuori, dici, si è procurato una situazione di vantaggio e ha gestito in maniera certamente antisportiva, certamente poco elegante, certamente un po' pagliaccesca questa regola, però si parla di Mourinho e molto poco della regola. Sì, devo dire che siccome Mourinho ha la parola vittoria stampata in fronte, sì. Il suo unico obiettivo è quello della vittoria, nella sua mentalità esiste anche un calcolo di questo tipo. Fa parte del personaggio, cioè pur di vincere è disposto a tutto Mourinho, diciamo la verità, insomma, sì. Anche a fare qualche furbata al limite, diciamo, dell'indecenza. Ed è da biasimare per questo? Ma insomma, certo, diciamo, la squalifica cercata in questo modo così plateale mi sembra qualcosa di eccessivo. Punirlo secondo me è sbagliato, già mi sembra che siano sufficienti per l'UEFA, cioè il gesto può avere conseguenze per il futuro della Madrid in Coppa, al di là delle punizioni, per l'immagine che Mourinho e Real Madrid danno in questa vicenda. Penso che siamo allineati anche su questo punto, guarda un po'. Grazie Giuseppe, buon ritorno. Grazie a voi. Grazie a Giuseppe Cruciani. Sì, io non me la sento sinceramente di aggiungermi a quelli che issono sulla croce José Mourinho per quanto ha fatto, ma questo semplicemente per quanto ho detto. È stato certamente plateale, inelegante, antisportivo e quello che vogliamo, però come diceva Giuseppe Cruciani è uno che ha un obiettivo ed è la vittoria. Si è procurato una posizione di vantaggio con il Real Madrid e ha in maniera molto vistosa sfruttato questa posizione di vantaggio, raggiungendo tra l'altro un duplice obiettivo. È stato quello di ovviamente preservare due giocatori importanti come Xabi Alonso e Sergio Ramos dalla squalifica, smascherando una regola che andrebbe cambiata, perché non ha senso portarsi dietro appunto le ammonizioni magari beccate alla prima giornata fino a primavera quando si giocano gli ottavi. E poi non so quanti oggi in Spagna e nel resto dell'Europa stiano parlando del classico, questa tattica un po' la conosciamo anche noi qui in Italia, stanno parlando e parlano da giorni di questo pasticcio. Ci sentiamo subito dopo il giornale radio, torniamo naturalmente per un'altra ora insieme, 800 24 00 24, numero verde. A tempo di sport. Eccoci qui, superata la boa dell'ora e mezza, ve lo ricordo, la domenica cominciamo non più alle 5 ma alle 16.30, alle 4.30 partite in corso, anche per avere più tempo a disposizione per parlare con voi. 800 24 0024 è il numero verde, messaggi 349 238 6666. Caro Valentino da Lecce, ma come si fa a difendere Mourinho sempre e comunque? Veramente non la capisco, io non difendo Mourinho sempre e comunque, semplicemente non mi va di accodarmi a quelli che l'hanno messo in croce dopo questo gesto certamente antisportivo, che viene insomma enfatizzato perché si tratta di Mourinho. Ranieri ieri ha detto sono cose che nel calcio sono sempre esistite, non lo sapete? Svegliatevi. Però l'ha fatto Mourinho, alla Mourinho, in maniera molto plateale, se vogliamo, anzi vogliamo di sicuro, certamente inelegante, Però guardiamo il dito che è Mourinho, la luna è quella di una regola che va modificata perché non cose di questo tipo non avvengano più. Cose che peraltro non sono inedite perché non so se lo sapete, c'è una sanzione dell'UEFA di un paio di anni fa, del 2008, perché due giocatori che allora vestivano la maglia del Lione, importanti come Juninho e Chris, fecero più o meno la stessa cosa in maniera meno plateale, però con lo stesso fine. In una partita penultima del girone, come in questo caso contro la Fiorentina, si fecero ammonire per saltare, non espellere in quel caso, erano diffidati, si fecero ammonire per saltare la gara ininfluente successiva e arrivare vergine agli ottavi di finale. Vennero puniti con 10.000 euro di ammenda cada uno, perché la volontarietà era indimostrabile in quel caso e ritengo sia indimostrabile anche in questo caso. La regola però, secondo me, andrebbe messa in discussione, come abbiamo fatto con i recenti mondiali di pallavolo, no? Con quelle sconfitte a perdere, ne abbiamo parlato molte volte anche con il nostro amico Andrea Zorzi, tutte quelle sconfitte a perdere favorite dal regolamento, sconfitte a perdere che erano antisportive, esattamente come lo è stato questo atteggiamento. Per cui c'è di mezzo Mourinho e dunque apriti cielo. 800 24 00 24, numero verde. Altro ascoltatore che scrive: se poi l'UEFA userà il pugno duro nei confronti dei due giocatori, magari con una severità estrema durante le prossime partite, questo sì sarebbe indecente. Mi auguro che non accada, anche se, ripeto, credo che finirà in questo caso come nell'altro, già con una sanzione economica e non con la squalifica di nessuno. Maurizio da Catania, buonasera. Buonasera, complimenti innanzitutto sempre per la trasmissione e per la compagnia. Ma io voglio fare un discorso un po' particolare. Premetto che per partito preso sono sempre, diciamo, dalla parte di Mourinho e anche in questo caso lo devo essere. No, io confesso, per partito preso no. Per partito preso no, non sono nemmeno interista. Quindi no, per partito preso, ma onestamente non trovo errori nella sua condotta a livello di tecnico, a livello di gestione di squadra, a prescindere che oggi sia al Real Madrid, poteva essere alla Juventus, avrei detto che avrebbe fatto bene. Sì. Però dico, io mi ricordo la semifinale Milan e Juventus, se non sbaglio, dove mancò Nedved per una ammonizione. Nedved saltò la finale per una ammonizione che prese nel finale della partita con il Real Madrid, semifinale con il Real Madrid a Torino. Nedved, che aveva dominato in lungo e in largo quella partita, non venne sostituito da Marcello Lippi, che lo lasciò in campo in quella finale. Se non ricordo male, la Juventus era in vantaggio 3-1, beccò l'ammonizione che gli costò la finale. Quello è un comportamento sportivo, cioè Lippi ha fatto una bestialità, perché avrebbe dovuto fare giocare Nedved, cioè ha privato una partita importantissima di un giocatore importantissimo. Quello è stato, cioè, antisportivo di un allenatore che lascia in campo un giocatore che ritiene in quel momento lì gli serva. Può essere ingenuità, comportamento antisportivo no. Mi ha fatto mancare lo spettacolo, mi ha fatto mancare l'equilibrio della partita, e allora lì è un errore. Ma se io voglio fare in modo di giocare una partita al massimo delle mie possibilità, è giusto che faccia, voglio dire, Messi, e io lo voglio rivedere in qualunque finale. Se dovesse essere ammonito in una semifinale, per me sarebbe una tragedia, a prescindere da chi gioca. Sì, Maurizio, allora detto questo, la regola sarebbe da rivedere, nel senso che alla fine della prima fase, come accade ad esempio ai mondiali, le ammonizioni vengono azzerate e tutti i giocatori arrivano a giocarsi gli ottavi di finale senza alcuna pendenza, insomma, arrivano vergini di cartellini agli ottavi di finale. Tra l'altro questo avvantaggerebbe le squadre più deboli, che hanno rose più ristrette, che hanno ovviamente meno ricambi, eccetera eccetera. Quindi la regola andrebbe rivista. Il comportamento di Lippi antisportivo direi proprio di no, nel senso che Lippi in quell'occasione non se la sentì di levare il suo miglior giocatore. In quel momento Nedved era il miglior giocatore della Juventus, e questo Nedved fece un fallo, se non ricordo male, piuttosto ingenuo a metà campo, però anche questo fa parte del gioco, dello stress della partita, della situazione, della stanchezza e così via. Poi non era una caratteristica di Nedved quello di tirare indietro la gamba, di pensare oltre a quella gara. Certamente poteva essere compito dell'allenatore quello di evitare di portare Nedved a quella situazione, però qui stiamo andando molto indietro. Mourinho, come diceva prima giustamente Giuseppe Cruciani, ha stampato in fronte una parola sola: vittoria. E quella è la sua religione, e quella è quello persegue. Insomma, siamo pieni di episodi di questo tipo molto antipatici, no? Ci metto dentro le partite a perdere, ci metto dentro anche se ne è parlato molto, i tifosi della Lazio che tifano contro la Lazio per non far vincere lo scudetto alla Roma. Io dissi in quell'occasione, non mi sento di condannare certamente l'atteggiamento dei tifosi della Lazio, il calcio è un po' il Palio di Siena, quindi anche questo atteggiamento, che non è molto diverso, ci può stare. Mario, Verona, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io sono milanista, lo dico prima di tutto. E quindi però è contento. Sulla vicenda che ma relativamente, perché onestamente non credo molto nella squadra che abbiamo. Perché? Però volevo parlare della... Ma perché non abbiamo difesa e comunque continuiamo ad aggrapparci su dei campioni anziché sul collettivo, insomma, perché anche ieri Ibra non è stato in forma, insomma, i risultati sono stati quelli là. Quindi ripeto, spero che regga, però insomma ci credo poco. Mi sembra un po' pessimista, però... mi permetta di dirlo, mi sembra un po' pessimista, perché il Milan così com'è disegnato in questo momento a me piace. Poi è Ibra dipendente, guardi, quello che vuole, però con questa struttura di squadra a me il Milan piace, perché quel centrocampo così forte anche fisicamente, che permette ad Ibrahimovic di far dipendere la squadra dalle sue capacità, perché se hai Ibrahimovic lo devi usare in quella maniera, ed è uno che ti cambia i campionati da solo a livello interno, poi discutiamolo a livello internazionale nelle grandi partite, questo è un altro film. Però per come è disegnato il Milan, a me lei sembra un po' pessimista. No, sembro pessimista anche perché se si parla di livello italiano, secondo me stiamo primeggiando, perché sono le altre che non stanno andando gonfie vele. Difatti sui 42 punti disponibili ne abbiamo 30, quindi credo che questo sia un segnale evidente che il campionato italiano si è livellato in basso. Però insomma il tempo darà ragione eventualmente. Sì. Però io volevo intervenire, se mi permette, sì, certo, sulla diatriba fra Benitez e Mourinho. Sì. Io, al contrario dell'ascoltatore precedente, io sto sempre con Benitez perché lo ritengo principalmente un galantuomo, cosa che Mourinho, insomma, se lo sogna, ecco. E poi volevo dire che le affermazioni di Benitez, io francamente, insomma, le trovo assolutamente normali. Lui ha detto bonariamente che sono stati spremuti i calciatori perché arrivare alle tre fasi conclusive delle competizioni e poi fare un campionato del mondo, insomma è evidente che insomma i giocatori sono arrivati. Però mi perdoni, era evidente anche nel momento in cui Benitez ha accettato l'incarico, quindi era nella logica stessa delle cose. Benitez avrebbe potuto dire subentro, ma la squadra è spremuta, subentro se mi prendete altri giocatori, subentro se ci sono altre condizioni. Non ha torto Moratti quando dice può diventare un alibi per la squadra. Ma io non lo so, io ripeto, mi dispiace tanto che il calcio, specie quello italiano, mi sembra non adatto alle persone per bene, mi verrebbe da dire, perché insomma mi viene in mente i vari Eriksson, mi vengono in mente i vari Donadoni, che venite secondo me di questa categoria. Ripeto, le sue affermazioni sono normalissime a mio modo di vedere, i calciatori dell'Inter, ripeto, fino all'ultimo secondo hanno lottato in Champions League, in Coppa Italia e in campionato, poi hanno dovuto farsi il mondiale, quindi dire che sono un po' spremuti onestamente non ci trovo niente di particolare, ecco. Dopodiché il personaggio Mourinho, insomma, credo che alleni il Real Madrid, signori, qua non stiamo parlando dell'ultimo arrivato. Credo che il Real Madrid, come il Milan, è importante vincere, ma è importante anche il modo col quale si fa. Sì, infatti è stato, Mario, infatti è stato criticato duramente anche da giornali come AS, che sono molto vicini allo spirito, mi viene da dire, del Real Madrid. Non è che questo suo comportamento, questo suo modo di vivere comunque il calcio in maniera molto italiana, molto finalizzata all'osso, all'essenza del risultato, sia stato accolto con i fiori da parte della stampa madrilena in settimana. Torniamo a parlarne subito dopo il traffico. Grazie Mario. Strade in diretta. Il maltempo continua a condizionare la circolazione in queste ore su gran parte del centro-nord. Nevica infatti sull'Autosole tra Fiorenzuola e Barberino di Mugello. Sul tratto appenninico si formano code tra Pian del Voglio e Barberino in entrambe le direzioni. Per la regolazione del traffico effettuata dalla Polizia Stradale ci sono lunghe code in A1 anche tra Firenze Sud e Firenze Nord verso Bologna, circa 10 km, con ripercussioni sulla 11 dove si resta in coda verso Firenze a partire da Prato Est. A Bologna code tra la A14 e Casalecchio verso Firenze. Nevica anche sulla 21 tra Castelvetro e Piacenza, sulla 15 della Cisa tra Parma e Pontremoli e in Friuli sulla 23 tra Carnia e il confine di Stato. Neve anche sulla 22 tra Trento fino al Brennero. Piogge sparse invece sulle regioni del centro e sulla Campania, a tratti intense sulle strade della Toscana. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Nel settore del riscaldamento, in California ci sono le norme più rigide sull'impatto ambientale. In Germania si è molto attenti all'utilizzo delle rinnovabili e in Gran Bretagna è prioritario ridurre i costi delle bollette del gas. E in Italia è nata la soluzione. Robur, l'eccellenza italiana per l'utilizzo certo e costante di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento degli ambienti. Robur è la pompa di calore ad assorbimento a metano che utilizza fino al 40% di energia rinnovabile per un grande risparmio e per un uso razionale dell'energia. E l'investimento oggi è detraibile al 55%. Per documentarsi www.roburperte.it. A tempo di sport. Proviamo con altri due ascoltatori, Mirko da Palermo, poi Paolo da Brescia. Mirko, buonasera. Buonasera, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io, al contrario dell'ascoltatore precedente, non sono così pessimista. Anch'io sono milanista. Sì. E notavo, io ho 28 anni, ne ho visti di Milan, nonostante la giovane età. Sì. Io non ho mai visto correre così il Milan. Non l'ho mai visto. Io ho visto ieri la partita contro la Samp, vabbè, non abbiamo vinto, però correvano. Sì, sta bene il Milan. Ed è una novità. Caro Mirko, sarà anche per quello che Ronaldinho sta a guardare, o no? Infatti, a me Ronaldinho piace perché... Però sinceramente si giocava in 10. No, ma sa, paradossalmente Ronaldinho sarebbe meno un problema ora di quanto non sia stato anche l'anno scorso con Leonardo, quando pure era titolare fisso, quando pure riusciva almeno a tratti a giocare su buoni livelli, stando agli assist, ai gol, eccetera eccetera. In questo momento col Milan disegnato così, paradossalmente Ronaldinho peserebbe meno per la squadra, perché potrebbe fare la seconda punta accanto a Ibrahimovic con un centrocampo più robusto. Evidentemente però Allegri con questa gestione vuole dare un messaggio chiaro allo stesso Ronaldinho e a tutti gli altri, nel senso che chi non è in condizioni perfette in questo Milan e chi non si allena in maniera perfetta e non si comporta in maniera perfetta in questo Milan non gioca. Mi sembra questo il messaggio tacito che Allegri vuole dare a tutti con questa gestione anche un po' offensiva, se vogliamo, di Ronaldinho, no? Tutto merito a lei, comunque, insomma, perché comunque mi ha stupito questo allenatore, sinceramente. Fare correre i giocatori del Milan se ne fa. Abituati a vederli a centrocampo che si passano il pallone orizzontale. Più che altro lei Pirlo in questo disegno come lo vede? Perché se ne è parlato molto in settimana, le ha detto: ah no, Pirlo chi lo discute, titolare fisso, capitano nazionale. È un giocatore fondamentale. Dove? Sì. Dove? A posto dei Flamini che io non ho giocato. Io, cioè, su questo non sono così d'accordo, perché in questo Milan, proprio per i motivi che lei diceva, in questo Milan e in questo momento del Milan Ronaldinho Pirlo può giocare soltanto nel ruolo di ora occupato da Seedorf, cioè alle spalle delle due punte, avanzato, perché alla diga dei tre a metà campo secondo me il Milan non deve rinunciare, perché in questo momento è ciò che consente, punto primo, di dare equilibrio e punto secondo di sfruttare al meglio le caratteristiche di Ibrahimovic. Quindi io credo che per Pirlo ritrovare un posto da titolare fisso sia non semplicissimo, ecco, può essere in questo momento, in questo Milan, l'alternativa a Seedorf. Altri ruoli non gliene vedo. Grazie Mirko. Paolo Brescia, buonasera. Buonasera signor Delta. Sera. Io volevo portare due cose cruciali da dire. La prima è l'antipatia che mi sviluppa, che mi monta in testa e nel cuore quando vedo esultare i calciatori per il gol, sì, che fanno i gesti, chi si porta il dito alla bocca, sì, chi si... Però posso dire una cosa, Paolo, mi permette? Mi permette? Sì. A me stanno antipatici anche quando non esultano, perché hanno giocato nelle giovanili in quella squadra, perché Di Natale oggi non ha esultato ai gol, mi pare non abbia esultato, no, ai gol del Napoli, non so se perché è napoletano, se perché ce l'aveva col suo allenatore o per un altro motivo, anche questo mi sembra piuttosto sciocco. Sì, evidentemente qualsiasi cosa fanno non va bene, diciamo così. non lo so. Una è questa, e l'altra era che 20 anni fa la squadra del laboratorio era andata in tipo semifinale a calcio a 7. Sì. E un calciatore della mia squadra diede una scarpata proprio a un calciatore avversario facendosi ammonire. Sì. Per quasi nessun motivo. Io chiesi all'allenatore, ero lì vicino, ma come mai ha fatto questo ingenuamente? E lui mi rispose appunto, gli avevo detto di farsi ammonire, così si resettava la... la... Sì, ma è stato quasi... Non l'ha inventato Mourinho, Non l'ha inventato Mourinho. Già 20 anni fa c'era, con effetti anche pericolosi, voglio dire. Sì. Quindi... effettivamente è da ripensare. Sì, perché se dice un calciatore professionista prova a fare un po' il furbo, questo si tira sui calzettoni come faceva Sergio Ramos. Se lo dice all'oratorio del torneo a 7, quello, il primo avversario che gli gira intorno lo stende, magari lo manda all'ospedale, si becca il rosso, il giallo e l'arancione, insomma. È così. Grazie Paolo, è stato molto simpatico. Garrisca il vento in lava del valore, una speranza viva ci consola, abbiamo un vice atleti e un solo cuore. Oh Fiorentina, di ogni squadra ti voglio. Paolo Beldì, buonasera, grazie. Buonasera a voi, sono in piedi. Questo è l'inno, il mio inno nazionale. Questa è una tua creatura. Questa è una tua creatura da storico. No, è di Narciso Parigi, diciamo che io l'ho rilanciato come un DJ. Sì, non so quanti la conoscessero prima di quelli che calcio, di questa tua intuizione nata dal cuore, ovviamente. Sì, l'avevo sentita allo stadio quando eravamo in Serie B, e allora ho detto, ma mi piacerebbe rilanciare questo pezzo un po' funky. Sì. E oggi è il giorno giusto, perché per la Fiorentina ieri sera, a parte la maratona di Firenze che noi da Radio 24 abbiamo seguito con grande attenzione, che il sindaco Renzi ha chiuso, ripeto, in 4 ore e 42 minuti, e ci diceva prima Giuseppe Cruciani, è un po' anziano, bisognerebbe rottamarlo, perché secondo me questo sindaco è anziano, ci vorrebbero dei sindaci più giovani in Italia per far rinascere la politica, è un po' anziano questo. Sì. E anche tutto sommato, secondo me, un po' fuori luogo nel pre-Juventus Fiorentina, perché una partita di questo tipo buttare un po' di benzina mi è sembrato un po' sconveniente. Non ho sentito cosa ha detto. Cosa ha detto? Beh, domani giochiamo contro quella squadretta con la maglia a bande. Ah, cerchiamo di battere quella squadretta con la maglia a bande, quella con cui la Fiorentina ieri ha fatto 1-1. Io sono un emigrato, pensa che io lavoro, cioè vivo a Novara, sono all'estero e pur sono della Fiorentina, quante battute fanno sulla mia squadra? Per carità, dai, non esageriamo. Novara seconda squadra allora? No, io non tradisco mia moglie. Novara l'ho sempre seguito, lo ammiro, sta giocando benissimo, sono pieno di amici, però mia moglie è la Fiorentina e non la tradirò mai. Neanche per una pizza, insomma, con il Novara. Neanche. Beh, per la Fiorentina ieri è arrivata non distante da Novara il primo risultato di prestigio di una stagione molto difficile. Come la valuti tu? Siamo partiti molto male, però è già dal... vuoi che parli da tecnico o da tifoso? Da quello che vuoi. Da tifoso allora, mi diverto di più. Va bene, allora parlo da tecnico. Sono già due partite che vedo la luce, nel senso che è rientrato D'Agostino, avevamo fuori Montolivo ed è tornato il centrocampo che tu sai è il filtro sia per la difesa che per lanciare l'attacco. Insomma. E sono due partite anche col Milan che avremmo meritato il pareggio. Certo, ieri sera vincere contro i miei amici juventini con un autogol mi sarebbe piaciuto molto, ero già pronto a telefonare a tutti. E vabbè, però era giusto il pareggio. Beh, ieri sera è anche tornato Vargas, che una certa differenza la fa nella Fiorentina, che fino adesso non si è vista. Ma io insisto su D'Agostino, che dà molto ordine a centrocampo. E quindi e complimenti poi a Boruc, come cavolo si mamma dice. Mia grande portiere, meno male che il mio amico Corvino l'ha comperato quest'estate, tutti quanti a dire ma non è giusto, ma è giusto che si abbiano due forti portieri, perché se ne fa male uno. Quando io ero giovane, lei non so se si ricorda, o tu, come vuoi, se tu ti ricordi, quando ero un bambino, il portiere primario era un certo Giuliano Sarti, quello che poi andò all'Inter, e riserva era un certo Albertosi. Certo. Io l'ho viziato bene, a me sta benissimo di avere due, anche in competizione due portieri mi sta solo bene. Assolutamente. Averne come Borucche, non so quanti ce ne sono in Serie A di portieri così forti, non ce ne sono tanti. La Fiorentina ne ha due, e tu hai ragione, se non c'era Borucche c'era un altro che vuoi, una riserva alla Alessandrelli, tanto per dirne una, ieri non ma so se la Fiorentina... Ti dirò che siamo coperti anche in terza battuta, perché abbiamo un portiere della Under 21 che è un certo Seculin, sì, di cui sentiremo parlare in futuro, guarda cosa ti dico. Sì. A me è molto simpatico Sinisa Mihajlovic. Non l'ho ancora conosciuto, penso di conoscerlo a breve, posso fare pubblicità ad ma un sì, libro? A ma assolutamente. Allora, assolutamente. Se non fosse... perché va in beneficenza non mi permetterei mai. Comunque nella zona di Firenze, diciamo in Toscana, dovrebbe uscire la raccolta di tutti i miei editoriali che ho scritto su Tutto Viola, il giornale sì, dello stadio, sì, da 2 anni e mezzo a questa parte. E si intitola, come la mia rubrica, un bel di vedremo, 3 puntini, Tutto Viola. E i proventi miei finiranno alla squadra di Matic, che è una squadra di ragazzi che giocano a Firenze con qualche problema fisico che sì, mi piacerebbe aiutare. Io lo voglio comprare, come faccio? Devi andare, te lo mando. Io voglio dare soldi, puoi anche però. Richiederlo, per carità. Puoi anche allora lo richiedo. Viene distribuito a Firenze in zona. Sì, allora lo farò certamente. Ho anche tra l'altro l'introduzione al libro di vecchi amici come Carlo Conti, Gianfranco Monti, Panariello, presidente, per me ancora presidente Andrea Della Valle, Corvino, Antonio Ricci mi ha scritto la prefazione, mi dimentico senz'altro qualcuno, mi scuserà. Senti, ma tu chi prenderesti a Colorado? Ronaldinho, Cassano? Per fare che cosa? Per fare il comico? Sì. Fare il comico prenderei De Neri, fa veramente ridere quando parla, e lo dico perché tra l'altro lo conosco, è stato a mezz'ala destra del Novara, quindi, ma sì, mi fa ridere il suo modo di esprimersi. Sembra Cluso. È il sosia, è il sosia di è l'ispettore Cluso. Ma detto con molto affetto, non lo dico. No, ma lo certo. Dico, perché è un timido che secondo me, essendo anch'io timido, lo capisco molto e mi diverte. Paolo, Mourinho ti fa ridere invece? Beh, io ero un grande ammiratore di Mourinho, ho sempre difeso perché dico non si vedono mai le domande che fanno certi giornalisti, poi lo si vedeva dare solo le risposte, bisogna sì, vedere anche cosa gli chiedeva. Sì, beh, certamente. Oggi l'Inter ha giocato male, gli dicono queste cose qua, e lui giustamente si inalberava. Oggi Benitez ha detto, insomma, gli è stata girata questa dichiarazione di Rui Faria, che è il vice di Mourinho, secondo cui non sono spremuti che non cerchi alibi. E lui ha risposto, non sapevo lavorasse al Grande Fratello, perché... perché dice come fanno a sapere che non sanno cosa faccio, non pensavo che Rui Faria lavorasse a Grande Fratello, evidentemente è così. Benitez non fa tanto ridere, poveretto. Grazie Paolo, figurati, un abbraccio, grazie a voi di avermi chiamato, viva grazie. Radio 24. Ciao. E viva la Fiorentina, e quel libro grazie, lo voglio, e lo ordino su internet, grazie. Grazie a Paolo Beldì. Ci fermiamo adesso per pochi secondi, un paio di minuti, 2 minuti. Aspettateci, 800 24 00 24, numero verde. Dietro ogni brindisi ci sono le frizzanti offerte Iveco Days. Fino al 15 dicembre, check-up gratuito, sconti sui ricambi e il concorso Iveco Days. Regolamento su iveco.it. Iveco Days, 100% ricambi originali, 100% professionalità. Sai qual è la differenza tra un'isola e una paradisola? La so, un frigo pieno di piadine e sandwich 024 Beretta. Sei 024 Beretta, hai tutto. 024. Torna Glenn Gould, il genio più eccentrico ed emozionante del pianoforte. The Glenn Gould Gold Collection. Mozart, Bach, Beethoven. 2 ore di superbe interpretazioni, raccolte per la prima volta in uno splendido e nobile album di 2 CD con 200 pagine a colori. La poesia del pianoforte non è mai stata così preziosa. The Glenn Gould Gold Collection è un'esclusiva Sony Classical, nei negozi di dischi. Signorina, il mio computer è lento. Non solo il suo, direttore, si stanno lamentando tutti. Il lavoro rallenta, il business non decolla. I tecnici che dicono? Bisogna cambiarli tutti. Facili per loro e i costi. Lo sapeva che con HP Trade-in si rinnova risparmiando? Acquistando un nuovo PC HP è possibile infatti ricevere fino a 400 euro di valutazione per i computer usati di qualsiasi marca, modello e tecnologia. E allora che aspettiamo a rinnovare con HP? HP Trade-in 840 26 92. Nuova linfa al nostro business. radio.hp.com. Amore, non trovo la bolletta. Quale bolletta? È la bolletta di novembre. La bolletta di novembre. Sì, sta sul tavolo in cucina. Abbassa anche tu la bolletta. Iscriviti a Enel Premia. È gratis, accumuli punti quando usi luce e gas e puoi avere fino a 100 euro di sconto in bolletta. Enel Premia. Più ci stai, più ti premia. Operazione a premi di Enel Energia, società di Enel per il mercato libero. Scadenza il 31/12/2011. Regolamento su enelenergia.it. Enel, l'energia che ti ascolta. Bella Melinda, tanto gustosa, rendi la vita un po' più gioiosa. Quando ti vedo il mio cuore si innamora e di mangiarti non vedo l'ora. È sempre l'ora di una croccante Golden Melinda, la mela dal gusto irresistibile, preferita dalle famiglie italiane. Gioca e vinci con Bella Melinda su melinda.it fino al 27 marzo 2011. Regolamento sul sito. Melinda, mi piaci di più. Tutti pensa che noi fatto grande cosa con Betulla, invece i nostri migliori risultati noi avuto con Peluche. E che avete fatto? Le librerie di Peluche? No, noi con Peluche fatto banchi di scuola, lettini, libri, case. Eh già, tutto con i Peluche. Eh sì, perché? Vabbè, almeno saranno più morbidi da montare. Quest'anno, per ogni Peluche che acquistate fino al 6 gennaio 2011, IKEA dona un euro all'UNICEF. Così con un regalo per il vostro bambino fate sorridere tutti i bambini del mondo. IKEA.it. Le richieste impossibili. Vorrei un investimento semplice, con cedola periodica e senza commissioni d'ingresso. È così impossibile. Ma no, è Arca Cedola, già scelta da migliaia di italiani. Arca SGR, più valore al tuo risparmio. Info su arcaonline.it. Prima dell'adesione, leggi il prospetto d'offerta. Davanti a voi il Big Ben, la celeberrima torre pendente. Famosa in tutto il mondo per il suo potente rintocco, risveglia da secoli gli abitanti della capitale britannica, Pisa. I suoi orologi segnano costantemente l'ora sbagliata, perché la forte inclinazione della torre fa andare le lancette sempre un quarto d'ora in avanti. Goditi due capolavori in una volta sola. Ti aspettiamo negli showroom Saab con la gamma 9.3 e la nuova Saab 9.5. Le auto che esprimono il massimo della sicurezza e del piacere di guida. Tutte con motori Euro 5. A tempo di sport. Dopo Paolo Beldì torniamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, abbiamo ancora una ventina di minuti o giù di lì. Vi ricordo che dalle 8:30 alle 9 vi racconteremo la giornata di basket, intanto per adesso calcio. Maurizio da Latina, buonasera. Ah, buonasera dottor Genda. Salve. Senta, io da tifoso del Milan sono ottimista e sì, sono soddisfatto di come il Milan sta giocando in queste ultime partite. Cioè, finalmente non subiamo la forza degli avversari, abbiamo nervo, carattere, corsa e volevo un parere da parte sua. Io vedo che con questo tipo di assetto anche altri giocatori ne beneficiano, ad esempio Abate. I due centrali come Thiago Silva e Nesta sono molto più coperti e quindi possono giocare con più tranquillità. E poi un'ultima cosa. Anche se ieri Nesta mi sembra un po' in riserva, mi sembra un po' in debito d'ossigeno fisico, mi sembra uno dei più in difficoltà Nesta. È chiaro che è un giocatore imprescindibile, però ieri non ha certo giocato una grande partita, però nel complesso ha ragione, ma la squadra ha più equilibrio, la difesa è più protetta, infatti il Milan subisce pochissimo, è indubbio il fatto che questo sia l'assetto migliore, ma d'altra parte, l'hanno detto molte volte, no? è improponibile presentarsi soprattutto a grandi avversari regalando il centrocampo, questo non si può fare. Allegri non è uno sciocco, l'ha sempre saputo, adesso finalmente riesce, complice una serie di circostanze anche fortunate se vogliamo, tra molte virgolette, perché l'infortunio di Pirlo ha permesso, che pure è una sfiga nera, però ha permesso ad Allegri di disegnare la squadra senza troppi input esterni come lui preferiva, ed è questo l'assetto che permette, ripeto, al Milan di essere più equilibrato e di sfruttare Ibrahimovic nel miglior modo possibile, perché centrocampo forte, Seedorf che fionda in avanti, Robinho che è un giocatore, ripeto, su cui ho cambiato totalmente idea, ma perché è voluto. Non mi piaceva il Robinho del Real Madrid, non mi piaceva il Robinho del Manchester City, probabilmente lui ha capito che per far fruttare completamente il suo talento doveva cambiare pelle, doveva essere un giocatore molto più funzionale alla squadra, e finalmente sto vedendo un signor giocatore, una signora seconda punta. E poi posso? Sì. No, poi volevo, mi meraviglio di anche giornalisti critici, qualche tifoso che stigmatizzano o considerano il dipendere da Ibrahimovic come una nota di demerito. La Juventus e l'Inter con Ibrahimovic hanno vinto quattro campionati. È uno, secondo me, il più forte attaccante in circolazione, fare parte da solo, quindi che sia Ibra dipendente il Milan penso che sia assolutamente normale. Del resto non si acquista un giocatore come Ibrahimovic e si fa giocare come magari si faceva giocare Ronaldinho o qualcun altro. Sì, o come si faceva giocare l'anno scorso al Barcellona. Per il Barcellona, per paradosso, Ibrahimovic era perfettamente inutile, no? Era un giocatore inutile, non c'è nulla di male, grazie Maurizio, non c'era nulla di male nel, come ha detto d'altra parte Ambrosini in settimana, nell'essere ibradipendente. Attenzione, questo può diventare un limite nella misura in cui gli altri non si propongono come alternative. Questo sì, il Milan deve imparare a sfruttare le alternative, ma nell'essere ibradipendenti non è peccato mortale, ci mancherebbe. Come sottolineava Maurizio, c'è chi ha vinto fior di scudetti in quella maniera. Gianni, buonasera. Gianni mi sente? Gianni da Genova. Sentivo quasi il rumore del mare. Non avevate anche voi questa impressione? Gianni c'è? No, Fabio da Roma allora. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Prima di tutto vorrei dire complimenti, veramente un esperto in tutto. Ma no, mi diverto. Sfogarmi il fatto della Lazio. Sì. Beh, si sa contenta dell'1-1 contro il Catania. Che mentalità metterei a questa squadra? Beh. Non lo so io. La squadra c'ha tutta la possibilità, il Milan ha pareggiato ieri, la Lazio ha giocato. Lo so Fabio, però vincere sempre non si può neanche chiedere a questa squadra di vincere sempre, insomma. Nelle ultime 5 partite ha fatto 5 punti o 4 punti. Sì. Contro sì. Cesena abbiamo perso, sì, oggi il pareggio, sì. Sì, contro sì. Il Parma il pareggio deve uno accontentarsi. Sembra quello di Napoli, l'ultimo 3 mesi di Napoli. Beh, però Fabio, io non so se lei da tifoso si immaginava di arrivare a dicembre con la Lazio seconda in classifica da sola. Francamente? No. E appunto, quindi insomma io direi che Reia sta facendo uno splendido lavoro. La squadra non è più brillante come all'inizio della stagione. Ha subito il colpo del derby, che a Roma è sempre qualcosa che lascia segno, lascia tracce, ha pagato a Cesena quando Reia, vi ricordate, cambiò completamente la squadra, però ha saputo reagire la Lazio, quindi direi che insomma vincere sempre non si può, nemmeno una partita apparentemente scritta e un'occasione d'oro come era quella di oggi con i Catania in casa. Però Catania in questo momento è una squadra piuttosto brillante dal punto di vista fisico, alla fine anche un po' fatto soffrire, un po' messo paura alla Lazio, direi che è un pareggio, mi viene a dire, fisiologico. Quindi chiaramente se la Lazio avesse vinto avrei 2 punti in più, sarebbe ad 1 dal Milan, un po' diverso, ma non così diverso insomma. Anche il Napoli oggi, che ne dica Mazzari, non ha giocato una bella partita a Udine. Insomma, per queste squadre direi che è fisiologico avere dei passaggi a vuoto come questo. Non so se è tornato Gianni da Genova, sento ancora il mare. Gianni, pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera. No, senta, io volevo parlare invece di sempre del Milan, però volevo parlare per il fatto di Socrates Papastatopoulos, sì, che secondo me non è stato sfruttato per le sue qualità, sì, perché è un giocatore molto forte, io l'ho visto giocare qua a Genova parecchie volte e secondo me merita di giocare, perché è un ragazzo forte atleticamente e fisicamente, è uno che spinge, è un ragazzo che secondo me merita. Ma lei, secondo lei, è da Milan? Secondo me sì, sicuramente, perché mi ha sempre impressionato quando ha giocato. Sì. E poi secondo me al Milan, nonostante tutto lo sforzo che abbiamo fatto per prendere Ibra, grazie alla società, grazie al presidente e alla Di Galliani, e mancherebbe ancora secondo me un centravanti di razza, cioè una persona che è un tipo alla Borriello, ecco, quello forse l'abbiamo perso. Sì, però una è partita anche vero, di ieri l'avremmo vinta. Gianni, però è anche vero che quando tu hai un giocatore come Ibrahimovic che si siede su quella poltrona e non si alza più, perché Ibrahimovic, come capitava, magari lei si ricorderà, a Van Basten all'epoca di Sacchi, senza voler fare nessun paragone tra i due, però quel tipo di giocatore tu non lo levi mai, neanche quando non ce la fa più, neanche quando ha qualche dolorino. È il classico giocatore che è il classico titolare fisso, insomma. Quindi prendere uno come Borriello per usarlo in situazioni speciali, lasciamo stare l'infortunio a Inzaghi e Pato, che è un giocatore in questo momento fisicamente inaffidabile, però diventa difficile prendere uno come Borriello che ha voglia di giocare, ha voglia di esplodere, ha voglia di essere titolare e dirgli giochi quando ci sono delle situazioni speciali. Sì, sì, sì, no, quello è d'accordo, sono d'accordo con lei. Però ad avere un'alternativa e ripropongo appunto il fatto di Socrates, che secondo me è un giocatore lasciato un po' nel dimenticatoio, secondo sì. me. Ma questo può essere, fino adesso non l'abbiamo visto. Le assicuro che è veramente forte. Fino adesso le occasioni che ha avuto a disposizione, non so se per questioni di ruolo, per questioni di adattamento, non le ha sfruttate certo bene. Però può essere che insomma che venga utile. Non abbiamo visto nemmeno Yepes, che è pure un giocatore di grande esperienza. È evidente che per Neste e Thiago Silva vale lo stesso identico discorso fatto per Ibrahimovic: ci sono tre giocatori che non vengono mai toccati, se appena stanno in piedi sono quelli, e in questo Allegri è pienamente comprensibile, insomma. Niccolò, Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io prima l'ho sentito dire che Mihajlovic l'è simpatico, poi Beldini sì. non le ha dato tanto spago su questa cosa. Ha detto ancora non lo conosco, a me come personaggio non lo conosco Sinisa Mihajlovic, ma a me è simpatico. Ma e dal punto di vista tecnico mi interessava anche una sua opinione, anche perché io ho visto sì. la partita con la Juventus, a Firenze tutti contenti per questo pareggio, però dal punto di vista del gioco la Fiorentina io l'ho trovata piuttosto inguardabile. Cioè, grinta magari ritrovata. Guardi, le rispondo subito su Mihajlovic allenatore: non credo che sia ancora un grande allenatore, questo no. Ho detto che mi è simpatico come personaggio, come allenatore sì. secondo me non è ancora un grande allenatore, e quindi probabilmente un po' presto per una squadra come la Fiorentina. Sarebbe stato certamente presto per una squadra come l'Inter, per prendere l'eredità di Mourinho di quella squadra. Per una squadra come la Fiorentina, secondo me, con la Fiorentina capiremo se può diventare un grande allenatore. Capiremo sì. se ha le caratteristiche per essere un grande allenatore. Un'ultima cosa, lei concorda con me su come ha giocato, sul sì. gioco ideale della Fiorentina della sì, partita del Torino? Ieri ho visto, è chiaro che è una partita condizionata dal gol molto rapido di quell'autorete, no? su cross di Vargas, che è un giocatore che comunque ti cambia la vita, e anche qui avrei aperto un capitolo sul fatto che la Fiorentina, così come molte altre, si è trovata ad avere gli uomini contati e soprattutto ad avere fuori uomini che fanno la differenza. Dallo stesso Vargas al lungo De Gente Jovetic a Montolivo, a molti altri. Quindi è chiaro che se una squadra all'organico dell'Inter, della Juventus o del Milan come profondità, le assenze si pagano, ma un pochino meno. Io credo che Mihajlovic abbia pagato tantissimo queste assenze. Lo stesso D'Agostino è stato fuori, è appena tornato. La Fiorentina ieri non ha certamente giocato una grande partita. La Juventus invece a me è piaciuta, così come mi è piaciuto il Milan, al di là di questi due 1-1, mi sembrano due squadre che stanno bene, che ci credono e che possono arrivare in fondo, che hanno la convinzione giusta. Alla Juventus manca qualità e questo lo vedrebbe anche un cieco, però se sul mercato di gennaio arrivano un paio di giocatori importanti e se riesce a mantenere questa condizione fisica, perché altre volte abbiamo detto come le squadre di Del Neri spesso paghino dopo la sosta natalizia, quindi sono molto curioso di vedere la Juventus alla ripresa dei giochi dopo la pausa natalizia. Ebbene, se si verificano queste due condizioni, la Juventus può vincere lo scudetto, secondo me. Ci fermiamo per il traffico. Strade in diretta. Continua a nevicare sull'autostrada del Sole tra Parma e Barberino di Mugello. Per la regolazione del traffico effettuata dalla Polizia Stradale, il traffico è congestionato tra Firenze Sud e Firenze Nord verso Bologna. Ci sono circa 14 chilometri di coda, con ripercussioni sulla 11, dove si resta in coda a partire da Prato Est verso Firenze. A Bologna code tra la 14 e Casalecchio verso Firenze, mentre sul tratto appenninico si formano code tra Pian del Voglio e Barberino in entrambe le direzioni. Nevica anche sulla 15 della città Pisa, tra Parma e Pontremoli, in Friuli sulla 23 tra Carnia e il confine di Stato e sulla 22 da Trento fino al Brennero. Attenzione anche alle piogge sparse sulle regioni del centro e sulla Campania e al vento forte sulle coste liguri, della Puglia e nel Triestino. Per il momento è tutto, Strada in diretta, torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Ecco che torniamo, ancora qualche minuto da passare insieme, 800 24 00 24, ma oggi più che mai buon pomeriggio a Filippo Maria Ricci dalla Spagna, da Madrid. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi trovi qui camminando sul viale di Valdebebas. Sì, dove stai andando? Tornando alla macchina dopo aver ascoltato lo spalle. Cosa ha detto? No, oggi è stato molto tranquillo, eh. Siccome lui controlla tutto, decide tutto lui, oggi non ha voluto tirare bombe. Sì. Però c'è una cosa molto divertente, che lui dice, ha ripetuto fino alla noia, che questa partita non è importante, o comunque molto meno importante delle partite di Champions, perché con le sue, usando le sue espressioni colorite, lì quando uno esce, poi se ne va a casa e guarda in televisione l'altro andare avanti. Sì. Dice domani, dice comunque vada, martedì sarà martedì e sabato si gioca col Valencia. Sì. Questa è una banalità. Dice, eh? È una banalità. Sì, e l'ha, l'ha ripetuta quattro volte. Poi è anche vero, nel senso che poi in campionato mancano 25 certo partite. Certo. Quando è andata al campionato l'ultima volta, o era dentro o era fuori, insomma. Quindi questo è una banalità, ma è anche una verità. Sì, però sì, la cosa divertente è che sì, ha detto così, ha sminuito l'importanza della partita, però poi si è presentato in sala stampa con Rui Faria, con Caranca, con Silvino e con Zidane. Ma dai? Zidane si è seduto tra noi, comuni mortali, diciamo della penna, accanto a un collega francese, e non entrava in quella sala da 4 anni e mezzo, insomma. Quindi forse un po' di importanza c'è per questa partita. Sì, un po' di importanza. O interpreto male? No, ma interpreti perfettamente. Poi è vero che se vogliamo dire una partita di campionato a fine novembre è meno importante di una partita di Champions League, perché bla bla bla bla bla bla, questo è tutto vero. Però è evidente che questa è la partita che dà l'abbrivio e dà il segno della stagione, no? D'altra parte basta leggere la tua intervista oggi sulla Gazzetta con Cristiano Ronaldo, che peraltro ha preso l'imprint già del suo allenatore e compaesano. Conta solo vincere, non chi segna, ma conta solo vincere. Esatto, conta lo solo schema, vincere. Non conta come si gioca, contano solo i tre punti. Sì. E così sarà. No, quindi un Mourinho poi ovviamente ha fatto la cosa più divertente, forse l'episodio più divertente, quando gli dicono, dice l'anno scorso quando è successo quell'episodio dell'espulsione di Motta con Busquets, lui lo ferma e dice no, non è l'anno scorso, è sempre quest'anno. Come dire, me lo ricordo molto bene. E poi da lì insomma è stato un ha detto che le squadre devono aiutare l'arbitro, anche questo l'ha ripetuto 4-5 volte, ha fatto notare che ha letto una pagina di AS in cui c'erano tutte le statistiche di Turralde e con lui il Barcellona vince sempre più o meno, il Madrid è meno felice, e cosa che infatti è finita nei titoli di tutti i siti qua spagnoli, però in realtà è stato tranquillo per i suoi standard, senza grande caffeina questa conferenza. Sì, ma è normale, no? Dopo la benzina usata in settimana, adesso la camomilla e va avanti così, ma ormai lo conosciamo, insomma, è un libro aperto. Tra l'altro, esatto. Mentre siamo ascoltatori, ci fa una domanda, penso poco interessante per gli altri ascoltatori, se a noi piace di più, a te piace di più Messi o Cristiano Ronaldo, e per chi farete il tifo nel classico di domani. A me piace più Messi, mi piace di più il Barcellona, non faccio il tifo, non riesco a fare il tifo per nessuno, perché insomma tifo è una parola grossa, non lo so, spero sia una bella partita. Tifo, insomma, io quando ero bambino tifavo per l'Inter, mio padre era di Milano e va bene così, sono stato contento di vedere qua a Madrid l'Inter vincere la Champions, però tifo ormai non lo so. Ma domani per chi tieni, banalmente? Ma no, andiamo con la banalità, si tifa per lo spettacolo, però sì, lo spettacolo sia dentro e fuori dal campo. Senti. Uno spettacolo a 360 gradi, includiamo le panchine. Ma certo. Si spera, ormai, e qui non è che si aspettano più solo i numeri dei giocatori, ti puoi aspettare il numero anche dalla panchina. Ma e allora chiaro, che numero sia, anzi no? Forse è il numero più interessante. No, tra l'altro volevo dirti che ieri parlandone c'era qui come Massimo Calegari, che secondo me ha colto nel segno, dicendo che al solito Mourinho con questa storia delle espulsioni pilotate ha preso due piccioni con una fava, nel senso che si è preservato i giocatori e ha scaricato di attese il classico di domani. perché per giorni si è parlato di quella cosa. Sì, per giorni si è parlato solo di quello, questo è vero. Ed è stato bellissimo ieri Cristiano Ronaldo quando gli hanno fatto la domanda, perché lui pure, la cosa più bella è che Cristiano Ronaldo è rimasto con due cartellini gialli, quindi hanno anche sbagliato i conti, perché sì, potrebbe essere lui, e lui è ancora in diffida. Il prescelto. Allora gli hanno detto, dice, ma perché non si è fatto ammonire pure te? Dice, ma perché chi l'ha fatto? Dice, chi è stato espulso? Dice, non ricordo. Grandissimo, con una faccia di tolla notevole. E sì, ha tolto, per quello che era possibile, ha tolto un po' di pressione, ha tolto un po' di attenzione ai suoi giocatori, però stavolta nel giochino non gli è venuto proprio bene, insomma, un professionista come lui ci si aspetta ben altro, insomma, potevano farlo meglio quel giochino ad Amsterdam. Sì, tanto che la stampa spagnola non ha gradito, compresa quella parte di stampa molto vicina al Real Madrid, che ha visto un po' come uno schiaffo all'identità madrilista, no? Allo stile madrilista, questo, sì, quello, quanto ha fatto Mourinho. È chiaro. Qua si riempiono la bocca, qua col signorio, no? L'essere signori del Real Madrid, insomma, abbiamo visto tante cose che non è che, insomma, qua si riempiono un po' la bocca, però diciamo che poteva farlo meglio, tutto lì. Sì, poteva farlo meglio, però io continuo a dire, non mi accodo a quelli che al corteo della crocifissione di Mourinho. Perché... Ma no, ma quando, ma perché, ma che siamo pazzi, cioè crocifiggere Mourinho vuol dire togliere una grandissima, grandissima parte a quello che è lo spettacolo del nostro calcio. Cioè io non è che sono pro Mourinho o contro Mourinho, però mi diverto, ne traggo beneficio, non so, insomma, se ne parla, è interessante. Certo, è interessante. Io la vedo così, poi dopo non è, perché uno si deve sempre mettere pro o contro? Ma sai, qui c'è stata tutta questa levata di scudi, no? C'è tutta questa levata di scudi, quella non mi viene un aggettivo riferibile per radio, ma l'ha fatto di nuovo, è stato lui, guardatelo. È un falso moralismo, insomma, soprattutto quando, no, il calcio italiano penso abbia un sacco di problemi, voglio dire, no? Due giorni prima che Mourinho facesse quelle cose, una puntata di Report ha detto alcune cosette sulla doppia presidenza del Parma di Tanzi che mi sembrano più rilevanti che i cartellini di Mourinho, voglio dire, cioè, ci si scandalizza di cose per cui è facile scandalizzarsi, perché non fa nessun danno, ma insomma, bisogna scandalizzarsi di altro, secondo me. E poi magari pensare di cambiare quella regola, perché trovo comunque assurdo arrivare alla seconda fase portandosi le ammonizioni magari la prima giornata. Sì, che poi le tolgono dopo, le tolgono nei quarti, Sì. Però vabbè, ma sì, ma lì è solo che alla fine lì è solo una cosa che fanno tutti, perché questo è solo fatta molto male, fatta in maniera teatrale, e che diventa una murignata, e noi però la prendiamo come tale, noi la murignata ci fa discutere, ci fa scrivere, ci fa chiacchierare, ci fa ridere, oppure ci fa arrabbiare, però ecco, scatena una reazione che comunque va sempre positivo, perché tanto alla fine stiamo parlando di calcio e non è che muore nessuno, insomma, se Sergio Ramos si abbassa le calze e si fa ammonire, insomma, non... Ti voglio molto bene, ti voglio molto bene, ti voglio molto bene. Senti, abbiamo ancora 30 secondi, hai ancora 30 secondi per dirmi se Zapatero ha ragione, cioè vince il Barça 4-2, il Barça è più di un club di calcio, il Barça è fantasia, il Barça è un'altra cosa, vince 4-2, dice Zapatero. Allora, che il Barça sia più di un club di calcio ha ragione, che il Barça sia un'altra cosa ha abbastanza ragione. E sul fatto che vinca non sono tanto sicuro, io sto dicendo, visto che qui si chiedono molti pronostici e se li fa il primo ministro li fanno tutti, io ho sempre detto 1-1, io vedo un pareggio che non fa male a nessuno, poi dopo poi vedremo, insomma, i pronostici si sbagliano, insomma, ecco. Però questa è come la vedo io, do ragione al Premier su quasi tutto, sul risultato penso che alla fine sia un pareggio. Intanto per cominciare, come ci hai detto tu, in campo è già sceso oggi in conferenza stampa Zizou Zidane. Grazie a Filippo Maria Ricci, a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Pietro Accolti in regia, a tutti voi che ci avete seguito anche oggi e che spero continuerete a farlo dalle 8:30 alle 9, quando torneremo per parlare di basket a dopo.